Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. In primo piano. Buona giornata, buona domenica da me, da Mauro Meazza. Domenica 13 settembre, diamo uno sguardo ai temi principali che vengono affrontati dai giornali in edicola questa mattina. Ovviamente la scuola, l'avete già ascoltato nel nostro giornale radio, la scuola tiene banco, viene da dire, cioè è l'oggetto dei titoli principali di molti giornali in edicola, ma non è l'unico tema che viene affrontato con grande evidenza dai quotidiani. Diamo un'occhiata ai titoli principali, poi andiamo ad esaminare via via i vari argomenti che sono in maggiore risalto. Allora, ad esempio, si occupa di scuola il Corriere della Sera nel suo titolo principale, con regole su mascherine e febbre. La scuola al via, la ministra Azzolina, naturalmente, lo avete ascoltato al Corriere. Gli studenti in aula possono tenere le protezioni. Non è l'unica cosa che ha spiegato ieri la ministra nel corso di un incontro a più voci, organizzato proprio dal Corriere della Sera. Ha dato alcune indicazioni, le leggeremo magari più avanti. La Stampa ha un titolo sempre sulla scuola, ma di altra natura, perché ci informa invece che le regioni sono in rivolta. Cirio, Azzolina, scontro finale. Allora, qui il riferimento è non solo alla decisione delle regioni, di alcune regioni, di rinviare la partenza dell'anno scolastico, ma anche all'ordinanza discussa, alla discussa ordinanza del governatore della regione Piemonte, che ha deciso che i genitori dovranno appuntare, naturalmente nella regione Piemonte, sul diario la temperatura dei loro figli prima di mandarli a scuola. La ministra non l'ha presa benissimo, per dir così, cioè ha detto che impugnerà questa ordinanza, e Cirio naturalmente dice che andrà avanti. Tutto questo viene riassunto nel titolo principale della Stampa. E poi ancora in materia invece di tutt'altra natura, cioè la riforma fiscale, che comincia qua e là, diciamo, a fare capolino. Perché? Perché andiamo verso la sessione di bilancio, quindi il prossimo trimestre, il quarto trimestre dell'anno, come sempre sarà dedicato alle decisioni che il governo deve prendere, il governo e il Parlamento devono prendere su come gestire i nostri soldi nel prossimo triennio, la manovra finanziaria. Naturalmente è una manovra finanziaria inedita, perché non solo dobbiamo fare i conti con la pandemia, ma anche con le dotazioni, le risorse che l'Unione Europea sta mettendo a disposizione. E allora cominciano a trapelare un po' le indicazioni che potrebbero essere le direttrici di questa manovra per il 2021. Ad esempio, sul Messaggero si dice: l'auto elettrica come le bici, super bonus in base al reddito, anticipando una delle proposte che stanno circolando, che stanno girando per adesso come carte, come bozze, come appunti tra i vari ministeri. Quindi l'idea di dare un robusto sostegno agli acquisti di auto elettriche, proprio misurato però sulla dotazione, sul reddito dichiarato dall'acquirente. Sul Sole 24 Ore, titolo principale dedicato ugualmente alla riforma fiscale. Riforma fiscale in due tempi, ambiente, tagli per 2 miliardi e 800 milioni. Ci torniamo su questa anticipazione del Sole 24 Ore. La sostanza è che la riforma a cui si sta pensando, che dovrà essere una delle architravi della manovra finanziaria del 2021, partirà probabilmente proprio da una revisione di tutta una serie di bonus e sussidi. Il ministro Gualtieri ha parlato di debonusizzazione, cioè di togliere i bonus, che sono molti e molto sparsi nel nostro sistema fiscale, tanto che poi spesso si riducono a pochi aiuti, ad aiuti di poco momento. Ecco, c'è la necessità di riordinare questa materia partendo, e sarà questa probabilmente l'intenzione del governo, dai cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi. Tutto quanto, come dire, molto bello, molto ispirato, ma nella realtà poi ci sarà da fare i conti, ad esempio, con la revisione degli aiuti all'autotrasporto, e non sarà probabilmente una questione facile. Veniamo alle questioni più legate al vaccino, E allora, ad esempio, il titolo primo da citare, da segnalarvi, è quello di Repubblica: fuori dal virus in 6 mesi. È la dichiarazione, invero un pochino impegnativa, per non usare termini diversi, del Ministro della Salute, cioè Roberto Speranza. Roberto Speranza rilascia una intervista a Repubblica. Il contenuto principale di questa intervista viene così riassunto in prima pagina dal quotidiano. Parla il Ministro della Salute Speranza, e c'è un virgolettato: presto una cura. Un appunto importante sul MES, sul meccanismo europeo di stabilità, che sappiamo divide nettamente il governo, i partiti di maggioranza. Dice Speranza a Repubblica: il MES necessario per una riforma del sistema sanitario. E poi, tornando a quello che vi segnalavo come titolo della stampa, cioè le regioni che sono in contrasto con il governo, ma questa volta invece in materia di vaccini e di Covid, scoppia il caso Sardegna perché il governo è pronto a impugnare l'obbligo dei test di ingresso che il governatore intende imporre. Andiamo su altri giornali che magari scelgono di dare evidenza, di dare sostanza a delle questioni differenti da quelle che vi ho segnalato finora. Ad esempio, La Verità dice: non sanno fare neanche i conti, tagliati gli sgravi anti-Covid. L'Agenzia delle Entrate corregge il decreto legge rilancio: troppo pochi fondi per il credito d'imposta sulle sanificazioni e acquisti di dispositivi di protezione resi obbligatori dalla legge. Il rimborso fiscale, scrive La Verità, passa dal 60 al 9%. Che cosa è successo? È successo che lo stanziamento dei fondi si è rivelato insufficiente rispetto alle cifre spese e segnalate in agenzia, quindi con una indicazione operativa diffusa proprio recentemente dall'Agenzia delle Entrate si arriva a questa riduzione di percentuale, a meno che ci sia uno stanziamento ulteriore per poter accontentare, tenere fede a quanto è stato dichiarato. Ancora in materia di fisco, il fisco si rincorre un po', occhieggia, verrebbe da dire, qua e là dalle prime pagine dei giornali. Scatta il settembre nero delle tasse, è il titolo principale di Il Giorno, il quotidiano nazionale. Imbuto di scadenze dopo le proroghe legate al Covid. Solo mercoledì prossimo sono in calendario 187 pagamenti. Qui il riferimento è un lavoro diffuso ieri dalla CGIA di Mestre, che ha fatto il conto di tutte le cose che vanno a scadenza o vanno in questo momento versate, ad esempio vanno presentate o versate, e ne risultano 187 adempimenti, naturalmente, che non riguardano tutti gli stessi soggetti, ma sono sparsi su più soggetti, ma effettivamente si crea un notevole affollamento proprio nelle stesse poche settimane. Il Giorno, tra l'altro, ha in prima pagina anche una grande foto per Roberto Favino, una faccia italiana che stringe la Coppa Volpi recentemente, appunto ieri vinta al Festival di Venezia. Lo avete ascoltato anche nel collegamento poco fa con Marta Cagnola. Il Giornale: governo allo sbando, follia, un sondaggio per aumentare le tasse. Qui la vicenda è la stessa che vi raccontavo poco fa a proposito del titolo del Sole 24 Ore, cioè una riforma fiscale che parte dalla revisione dei sussidi ambientalmente dannosi. Questi sussidi ambientalmente dannosi verrebbero sostituiti o cancellati. Allora, il problema è che ovviamente togliere un sussidio significa aumentare il prelievo fiscale, almeno su alcune categorie, cioè quelle che godono di questi sussidi. E quindi Il Giornale riassume questa vicenda appunto in questo modo: follia, un sondaggio per aumentare le tasse, la deriva del populismo grillino, bastano 327 voti sul sito del Ministero dell'Ambiente per alzare le accise sul diesel, una botta da 17 miliardi. Ecco, è un esempio di sussidio ambientalmente dannoso, che però è un sussidio che serve ad esempio all'autotrasporto, e quindi già si intuisce dove potranno essere le difficoltà nella dare una diversa veste, un diverso equilibrio proprio ai sussidi ambientali e al nostro fisco in generale. Ho sul giornale, tra l'altro, un titolo anche per l'inchiesta che sta interessando la Lega con i tre commercialisti e Lombardia Film Commission. Ovviamente le ricostruzioni sono le più diverse, c'è anche una certa, per così dire, ancora confusione, perché solo settimana prossima, cioè da domani in avanti, si riuscirà probabilmente a mettere in chiaro quali sono effettivamente le carte a disposizione della Procura e quali sono le posizioni delle persone interessate. Comunque Luca Fazzo ha una posizione, diciamo così, dubbiosa sulla liceità, sulla correttezza di questa inchiesta. Scrive sul giornale: tre buchi nell'inchiesta per fare fuori la Lega. Per par condicio vi segnalo sul Fatto Quotidiano tutt'altro titolo, invece, caccia al tesoro da Panama al Lussemburgo, è il titolo che invece dà il Fatto Quotidiano alla sua prima pagina, proprio per dare grande evidenza, è il giornale che dà maggiore evidenza alla questione della inchiesta che sta interessando la Lega e i tre esperti professionisti che a vario titolo risultano coinvolti in questa inchiesta. Avvenire dalla prima pagina al richiamo del Papa, e poi invece la foto centrale, la grande foto centrale è per la scuola, il ritorno in classe, ecologia ed equità è il richiamo del Papa che dice: rispetto per il creato, liberiamoci dal menefreghismo, basta con lo spreco e lo scarto e basta con la prigionia del cellulare. Questo è il titolo di Avvenire. Poi la sfida del ritorno in classe, tutti i giornali, lo avete ascoltato nel giornale radio poco fa, tutti i giornali danno evidenza anche alla ripresa dei test sul vaccino da parte di AstraZeneca, una ripresa che diciamo così rasserena un po' tutti, rasserena anche Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Sanità, che firma proprio l'editoriale sul suo Avvenire e dice: passi avanti nella lotta al Covid. Allora, abbiamo più o meno un minuto e mezzo, mi fa cenno anche Paolo Corleoni dall'altra parte del vetro, grazie Paolo per il tuo aiuto di quest'oggi. Scegliamo così a caso un articolo che vorrei approfondire: fuori dal virus in 6 mesi, mi sembra il titolo così più ottimista che troviamo oggi sui giornali. Allora vogliamo cominciare a leggere qua e là da questa intervista di Annalisa Cuzzocrea al Ministro della Salute Roberto Speranza. Dice: resistere ancora qualche mese, e poi il virgolettato del ministro: una cura e un vaccino per il Covid sono vicini. Poi dice ancora Speranza: basta polemiche inutili sulla scuola, non è un problema della ministra Azzolina ma di tutti noi. E poi ancora: prendere i soldi europei per fare subito quella che più che una riforma sarebbe una rivoluzione, cioè portare il servizio sanitario nazionale nelle case delle persone. La parola d'ordine deve essere vicinanza e prossimità. Nel frattempo, chiede la collega Cuzzocrea, gli esperti invitano tutti a vaccinarsi contro l'influenza. Ci saranno abbastanza dosi? Speranza risponde: ne abbiamo prenotato il 70% in più rispetto agli altri anni. Perché non prevedere, chiede Annalisa Cuzzocrea, la misurazione della febbre a scuola con i termoscanner prima di entrare? Come ha spiegato il comitato tecnico scientifico, spiega il ministro, la febbre va misurata a casa perché il tragitto fino a scuola è già occasione di incontri, pensi solo ai mezzi pubblici, e va misurata a casa per evitare assembramenti fuori dagli istituti scolastici. Abbasserete la quarantena a 10 giorni? Stiamo valutando. Ascolteremo prima il comitato tecnico scientifico e ci confronteremo anche con gli altri paesi europei. Noi adesso ci fermiamo perché è il momento delle previsioni del tempo. In primo piano. Bentornati alla rassegna stampa di questa mattina. Quest'oggi in mia compagnia Mauro Meazza, da cui ancora vi rinnovo un augurio di buona, ottima domenica. Vi stavo raccontando di questa intervista che trovate su Repubblica oggi al Ministro della Salute Roberto Speranza. Dobbiamo resistere altri 6 mesi, a fine inverno, dice Speranza, quindi marzo del 2021 saremo salvi, nel senso che si capisce dall'intervista l'avremo a disposizione un vaccino e quindi dovremmo essere più tranquilli. Intanto però i problemi aperti sono molti. Ad esempio il presidente della Sardegna, il problema dei contrasti con le regioni, gli ricorda Annalisa Cuzzocrea, ha emanato un'ordinanza che prevede il tampone per chi arriva sull'isola. La preoccupano, chiede al ministro, le iniziative solitarie dei governatori. Dice il ministro: quello che penso e che ho detto fino al primo momento è che senza condivisione e con scelte unilaterali non si va lontano. Il meccanismo europeo di stabilità e i fondi che, come sappiamo, il governo in parte vorrebbe prendere, ma in altra parte non vorrebbe prendere. Il governo è diviso sui fondi del meccanismo europeo di stabilità, ricorda Annalisa Cuzzocrea. Chi non lo vuole ritiene che la sanità sia già in sicurezza, che l'Italia non abbia bisogno di prendere quei 36 miliardi. È così? La risposta del ministro è questa: i soldi servono. E ne servono tanti perché abbiamo un'occasione unica, fare una riforma che non sia fatta di tagli ma che miri a riportare la sanità dove non c'è. La chiusura di ospedali e presidi nelle aree interne ha contribuito al distacco tra centro e periferia, tra città e contado. Io sono favorevole al meccanismo europeo di stabilità, non mi interessa da dove arrivino i soldi, non ne guardo il colore, che vengano dal meccanismo europeo di stabilità, dal recovery fund, dal bilancio dello Stato, ma che arrivino. Ancora su un'altra polemica di queste settimane, i verbali del Comitato Tecnico Scientifico, il piano pandemico di inizio marzo. Perché non avete reso pubblico il piano pandemico di inizio marzo? Questo governo, risponde il ministro, non ha mai secretato nulla. Siamo gli unici al mondo a pubblicare tutti i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. A metà febbraio i nostri scienziati hanno fatto uno studio con ipotesi molto variegate sul potenziale impatto del Covid e sulle misure che si potevano mettere in campo. Uno studio, dice il ministro, che gli stessi scienziati ritenevano fosse meglio mantenere riservato. Trovo le polemiche incomprensibili. Queste le dichiarazioni, alcune delle dichiarazioni del ministro della Salute, oggi ha intervistato da Repubblica. Cambio decisamente argomento per parlare di scuola. Allora, di scuola, di che cosa fare da domani, dove le scuole riaprono, sappiamo che non avverrà in tutte le regioni, come comportarsi, quali sono gli obblighi, quali sono le cose ancora irrisolte, parlano praticamente tutti i giornali, con maggiore o minore risalto in prima pagina. Riassume però, secondo me, molto bene un editoriale di Vittorio Feltri su Libero. Libero non dà spazio alla riapertura della scuola nella sua prima pagina, anzi parla di un articolo del Wall Street Journal su Salvini. Gli americani santificano Salvini, il Wall Street Journal consacra il leader leghista. Dall'intervista rilasciata alla testata dell'elite conservatrice statunitense emerge la consonanza con Trump su tasse e immigrati. Questo è il titolo principale oggi di Libero. Ma l'editoriale invece, l'editoriale di Feltri, è dedicato proprio alla scuola e dice tra le altre cose, ve ne leggo qualche passaggio. Domani la scuola italiana va sotto esame. Aperte le aule, che sono state chiuse per mesi, capiremo se le strutture sono in grado di reggere alla prova del Covid, un vero cataclisma. Sui giornali si segnalano tutti i problemi e i rischi che corre la pubblica istruzione. Allarmismo esagerato se si considera che il nostro sistema educativo è deficitario da decenni. Immancabilmente a settembre, cioè al via delle lezioni, si lamentano carenze di organico. Manca una quantità sterminata di docenti e le classi soffrono un numero eccessivo di supplenti. Perché questo? Argomenta Feltri, il corpo insegnante conta complessivamente 1 milione di persone, più che sufficiente per il funzionamento del baraccone. Peccato che ogni 12 mesi circa 40.000 tra maestri e professori vadano in pensione e l'istituzione non è capace di rimpiazzarli tempestivamente. Prima che vengano sostituiti trascorre spesso un lustro, il che vuole dire che il buco nell'organico diventa una voragine. All'appello non rispondono 200.000 pedagoghi. Ovvio che la scuola non funzioni a dovere. Più oltre, il problema, per quanto ne dica Salvini, non è l'attuale ministra Azzolina. Siamo di fronte a un dramma antico di tipo strutturale. Chiunque si sia alternato alla guida del dicastero che si occupa di alunni e studenti ha rimediato figure barbine non solo per proprio demerito. Va rifondato l'intero sistema partendo dal principio che un paese che trascura la cultura è destinato a fallire. Ancora nella conclusione scrive: un esecutivo efficiente, e non è il caso di quello attuale e neppure dei precedenti, dovrebbe rifondare l'istruzione da cui dipende il futuro nazionale, ma non credo sia pronto a una simile impegnativa operazione. Questo è l'editoriale di Vittorio Feltri sul Libero, proprio sull'apertura della scuola. Oh, naturalmente, come sapete, lo avrete già sentito annunciare se siete ascoltatori affezionati, come io mi auguro, di Radio 24, domani Radio 24 dedicherà al ritorno a scuola proprio un Radio Day, quindi ci saranno interviste, approfondimenti, cronache in diretta dagli istituti durante tutta la giornata per verificare com'è questo debutto. Prendo dal secolo XIX: orari, distanze, mascherini, le regole per il ritorno a scuola. E poi annuncia sempre in prima pagina il Giornale di Genova le stime: negli istituti liguri fino a 40 positivi al giorno. I medici di famiglia chiedono di estendere i tamponi. Alle pagine 2 e 3 del secolo XIX, così come in tantissime pagine interne dei giornali quest'oggi, una serie di indicazioni operative per i genitori. Le trovate, devo dire, c'è l'imbarazzo della scelta, potete trovarle sul Corriere della Sera, sul Secolo XIX, su Repubblica, insomma, scegliete un giornale tra quelli che più vi aggradano, magari anche più di un giornale, perché no, e provate a così vedere quali sono le indicazioni, ad esempio sulla mascherina. E allora, la mascherina è ad esempio uno dei punti che viene affrontato che è stato affrontato dalla ministra di istruzione Azzolina proprio in questo confronto con il Corriere della Sera insieme a Manuel Agnelli e una preside, Patrizia Cocchi. Gianna Fregonara e Orsola Riva riassumono il confronto e vi segnalo alcune delle risposte fornite dalla ministra. Ministra, chiedono, un padre ci ha scritto chiedendoci perché suo figlio 15enne non può tenere la mascherina in classe visto che ha paura. Perché alle medie e alle superiori non si stabilisce l'obbligo delle mascherine sempre? La risposta della ministra: noi abbiamo detto una cosa diversa. Se c'è il metro di distanza e il ragazzo vuole abbassarla, può farlo, ma nulla gli vieta di tenerla se preferisce così. Ma ministra, molti genitori chiedono di prevedere la didattica a distanza anche per chi alle elementari e alle medie resterà a casa per un'influenza o un raffreddore, che con le regole anti-Covid costringeranno i bambini ad assenze continue. Risponde la ministra Azzolina: nulla vieta, se la scuola è attrezzata, di videocollegarsi anche con chi ha un banale raffreddore. E poi, diciamo un po' la domanda delle domande, ministra, alcuni genitori chiedono perché, nonostante 6 mesi di tempo utile, ancora oggi molte scuole non siano pronte. Risponde la ministra Azzolina: non abbiamo avuto 6 mesi per riaprire le scuole. Fino a fine maggio abbiamo lavorato per chiudere l'anno scolastico, inventando la didattica a distanza e facendo gli esami di Stato in presenza. Poi abbiamo iniziato a lavorare sul 2020-2021. Lo so, dice la ministra, che stiamo chiedendo alle famiglie dei piccoli sacrifici, ma per tornare a scuola dobbiamo rinunciare a qualcosina. All'inizio non si faranno gli orari per intero, vero? Ma restituiremo alle famiglie un pezzo di normalità. La replica delle giornaliste: lei chiede molta pazienza alle famiglie, sono arrivate decine di domande di genitori che lamentano i buchi nell'organico. Questo è probabilmente il problema dei problemi, oltre a quello delle strutture, cioè delle aule, degli edifici che sappiamo non essere spesso in condizioni ideali per l'insegnamento, ma proprio in generale anche per ospitare i nostri ragazzi. Anche il problema dell'organico degli insegnanti è l'altra cosa che più turba i sonni delle famiglie. Risponde la ministra: nessun altro paese ha stanziato soldi per l'organico aggiuntivo, tranne la Spagna. Ci sono, è la sua dichiarazione, piccole criticità. Le stiamo risolvendo a poco, le assunzioni che si potevano fare si sono fatte, le altre non si sono fatte perché qualcuno non ha voluto i concorsi. A ottobre però il concorso si farà. Quindi vediamo se per ottobre, allora col concorso, andremo a sanare, a tappare i buchi nell'organico che ancora tormentano anche quest'anno, come scriveva, ricordava Vittorio Feltri nel suo editoriale oggi sul Libero, i buchi nell'organico che anche quest'anno tormentano le scuole e le famiglie. alle prese con il rientro ancora con la supplentite. 30 secondi solo per segnalarvi dalla stampa la posizione del governatore del Piemonte Alberto Cirio, che appunto ha imposto la misurazione a scuola e la misurazione a casa della temperatura e la segnalazione sul diario. Dice: sì, mi ha chiamato la ministra Azzolina, mi ha invitato a ripensarci, sostiene che creo problemi alle famiglie, le ho risposto che un'autocertificazione non è un problema per nessuno, io scrivo e firmo tutti i giorni sul diario di mia figlia attestandone la partecipazione o meno alla mensa. Risultato: è rimasta sulle sue posizioni e io sulle mie, così risponde ad Alessandro Mondo. Ci fermiamo perché è il momento del traffico. In primo piano. Torniamo a leggere i giornali, vi ho segnalato quali sono i temi principali, ve li riassumo in questa ultima parte della nostra rassegna stampa. Naturalmente la scuola, il ritorno a scuola per molte famiglie, per molti alunni, nella maggior parte, non in tutte, delle regioni d'Italia. Allora la scuola ovviamente ha un grandissimo spazio anche, e ve lo segnalavo prima, con molte pagine, doppie pagine di istruzioni, di indicazioni, di riepilogo delle informazioni utili. C'è poi naturalmente spazio per le questioni legate al Covid, al vaccino, una intervista al Ministro della Salute che si dichiara fiducioso nel poter superare di qui a 6 mesi questa pandemia. L'indagine sulla Lega qua e là anche in prima pagina sui quotidiani. Non vi ho parlato, ma trovate tantissimi resoconti su tutti i giornali, della cronaca dei funerali del ragazzo di Colleferro, Willy Monteiro, e della partecipazione alle parole anche pronunciate dal nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha lodato anche i ragazzi per la loro volontà di testimoniare, di non lasciar passare in modo omertoso questa tragedia. C'è poi tutto questo rincorrersi, e ve lo raccontavo in apertura della rassegna stampa, di questioni relative alla possibile riforma fiscale che dovrebbe vedere la luce. Io uso sempre il condizionale quando si parla di queste vicende tributarie: dovrebbe vedere la luce con la prossima manovra finanziaria. Allora, ad esempio, sul Sole 24 Ore, in pagina 3, si parla di una riforma fiscale che parte da lavoro, famiglie e autonomi. Il contributo è di Davide Colombo e Marco Mobili, che dicono: dal taglio dei sussidi ambientali dannosi, in sigla SAD, ve la dico questa sigla perché probabilmente diventerà molto popolare, quindi conviene che cominciamo a impararla subito, quindi SAD, sussidi ambientali dannosi, dicono Colombo e Mobili, dal taglio di questi sussidi dovrebbe arrivare la prima dote per avviare la riforma fiscale. Almeno 2 miliardi e 800 milioni di euro a regime stimano dall'ambiente. Una riforma che, leggendo le recenti linee guida sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza Italia, richiederà un percorso a tappe per la sua messa a punto e la successiva attuazione. Gli obiettivi dichiarati sono noti: migliorare equità, efficienza e trasparenza del nostro sistema tributario, mi permetto di chiosare vasto programma, avrebbe detto il generale De Gaulle, incentivare l'occupazione e gli investimenti materiali, nonché in quelli in ricerca e sviluppo delle imprese. Allora, come dovrebbe avvenire? Le linee di intervento, racconta il Sole 24 Ore questa mattina, sono fondamentalmente due. Riforma IRPEF, sappiamo che si discute di una revisione del prelievo, anche di una riduzione del prelievo, soprattutto sul ceto medio, sono fondamentalmente due. La riforma IRPEF coordinata con il futuro assegno unico, è quell'assegno che dovrebbe andare alle famiglie come sostitutivo di tutte le varie provvidenze attualmente disperse, e poi riforma delle tax expenditure in una prospettiva green. Che significa? Significa che le detrazioni e le deduzioni, che oggi sono molte, ne hanno contate più di 700, dovrebbero essere riordinate e reindirizzate soprattutto verso quelle detrazioni e deduzioni che servono anche a un miglioramento complessivo dell'economia, a un suo reindirizzamento in una chiave ambientale. Questo dovrebbe essere il piano di intervento. Informano Davide Colombo e Marco Mobili che va avanti anche l'istruttoria sulla semplificazione che è stata proposta dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, sull'IRPEF per le imprese, che dovrebbe passare ai pagamenti mensili per cassa, e sappiamo che sarebbe un passaggio abbastanza copernicano, una rivoluzione abbastanza copernicana per le nostre imprese. Manuela Perrone intervista sul Sole 24 Ore il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che dice: non vogliamo che l'eliminazione graduale di incentivi, parla naturalmente di incentivi ambientalmente dannosi, sia percepita come un modo per fare cassa. Dice: tagli da 2,8 miliardi a sussidi dannosi per aiutare la riconversione green. Naturalmente la collega Perrone dice: sì, il sussidio ambientalmente dannoso più consistente è l'accisa ridotta sul gasolio. Anche qualche titolo di giornale la segnalava in prima pagina come punto critico di questo possibile intervento sul nostro fisco. Chiede la collega Perrone: ma le associazioni dell'autotrasporto e della vendita dei prodotti petroliferi sono già sul piede di guerra in caso di abolizione appunto di questa accisa ridotta, quindi un prelievo ridotto sul gasolio. Temono sia le associazioni sia coloro che producono, appunto vendono prodotti petroliferi, un colpo alle imprese, peraltro senza benefici ambientali. Sarà così? La risposta del ministro è: partiamo da una consapevolezza. L'attuale livello emissivo non è sostenibile, sia per gli effetti sul clima, sia per gli effetti diretti sull'inquinamento, sulla nostra salute. L'OMS conta circa 80.000 vittime per inquinamento dell'aria in Italia. Quello che non è ragionevole, sotto il profilo economico e ambientale, è che lo Stato incentivi le attività più inquinanti pagando due volte. La prima per aver sostenuto quella scelta, la seconda per far fronte ai danni che quella scelta comporta. Pensiamo, ad esempio, alle cure sanitarie. Siamo consci della preoccupazione del tagliare le accise e quindi creare dei contraccolpi negativi. Non ci siamo svegliati una mattina e abbiamo cancellato i SAD, cioè i sussidi dannosi. L'autotrasporto non è stato preso in considerazione dalle misure esaminate dalla commissione ministeriale. Il differente trattamento fiscale tra gasolio e benzina, che è uno dei sussidi di cui si è occupata la commissione, non ha nulla a che fare con le agevolazioni di cui gode il settore dell'autotrasporto. Quindi, decifrando il tutto, sembra che l'intenzione sia la seguente: le accise le rivediamo, però altri sussidi per l'autotrasporto invece li lasciamo. Così arguisco io da questa articolata risposta del ministro dell'Ambiente Sergio Costa sul Sole 24 Ore. Invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a proprio leggere anche loro dal Sole 24 Ore questa risposta, a capire quale può essere l'indicazione operativa. Vorrei dedicare questi ultimi 5 minuti, anzi meno di 5 minuti, mi facendo Paolo Corleone, dicendo: non ti azzardare ad andare più lungo di quanto ti abbiamo consentito, al un tema che non trova più, per dir così, la grande popolarità che ha avuto in altri momenti, e mi riferisco ai migranti. Uso per questo fine l'editoriale che viene firmato, il contributo che come ogni domenica viene firmato da Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore. In realtà le questioni dei migranti, e specialmente di quello che sta succedendo sull'isola di Lesbo, sono in evidenza anche su altri giornali, ad esempio sul Manifesto. Ma forse Fabbrini è colui che riassume meglio e più sinteticamente tutta la vicenda, perché il suo articolo è intitolato "La miscela esplosiva di Covid-19 e rifugiati", oggi sul Sole 24 Ore, già dalla prima pagina. Dice: stiamo ritornando, scrive Fabbrini, al biennio 2015-2016 in materia di appunto gestione o non gestione della immigrazione, in un contesto però reso più drammatico dalla pandemia. Due domande: com'è stato possibile e cosa si può fare? Cominciamo dalla prima. Di fronte alla diffusione della pandemia, le leadership europee hanno dovuto focalizzarsi sulla risposta da opporre a quest'ultima, e tale sforzo sta dimostrando che l'Europa c'è quando è necessario che ci sia, per dirla con Ursula von der Leyen. Tuttavia, considerando la crisi migratoria del 2015-2016, si può dire che l'Unione Europea c'è quando si tratta di gestire la crisi e non già quando si tratta di risolverla. Ancora oggi, ad esempio, non abbiamo una protezione delle frontiere di Schengen, oppure non abbiamo una politica comune nei confronti dei rifugiati, in quanto alcuni paesi, come il gruppo sovranista di Visegrad, hanno continuato a opporre il loro veto ad ogni soluzione collettiva. Prosegue Fabbrini poi nelle pagine interne, nella pagina dei commenti. Da qui la necessità di ricorrere a soluzioni tampone, che però creano nuovi problemi mentre risolvono quelli vecchi. Si pensi all'accordo del 18 marzo 2016 che l'Unione Europea siglò con la Turchia, finalizzato a trattenere in quel paese i milioni di profughi che fuggivano dalla guerra civile in Siria. In cambio, il governo turco ottenne 6 miliardi di euro, i cittadini turchi ottennero la possibilità di viaggiare senza visto nell'Unione, la Turchia di essere considerato un candidato possibile per entrare nell'Unione Europea. Nel breve periodo, scrive sempre Fabbrini sul Sole 24 Ore di oggi, la soluzione funzionò. L'afflusso di rifugiati in Germania si ridusse e Angela Merkel e il suo partito, la CDU, sopravvissero alle elezioni federali del settembre 2017. Nel medio periodo, però, l'accordo rafforzò il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e la sua politica autoritaria all'interno e neo-imperiale all'esterno. E allora Fabbrini prosegue argomentando, ad esempio, che in questo momento si sta discutendo la bozza per il bilancio finanziario 2021 per l'Unione Europea. E lì, segnala Fabbrini, attenzione, il Migration Fund, fondo per le migrazioni, viene ridotto di 230 milioni. Il fondo per la gestione integrata delle frontiere di 489 milioni. Un altro fondo, sempre per gli strumenti di gestione delle frontiere, viene ridotto di 450 milioni. Insomma, una serie di tagli che adesso, avverte Fabbrini, dovranno essere negoziati con il Parlamento europeo, il cui consenso è necessario per approvare i bilanci dell'Unione. Un Parlamento che ha già espresso la sua contrarietà. Tuttavia, la bozza segnala la difficoltà dell'Unione Europea a liberarsi del tabù del bilancio minimo. Quindi per adesso siamo, lo argomenta Fabbrini, alle misure necessarie, volontarie, ma non sufficienti. Grazie dell'ascolto, grazie a Paolo Corleoni per l'aiuto in regia e buona domenica a tutti. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.